falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Beh, questi sono giorni particolari per la storia del nostro paese, perché 100 anni fa, il 24 maggio, l'Italia iniziò una guerra molto difficile e dolorosa, una guerra che costerà milioni di vittime in tutto il mondo, cambierà la storia di molte nazioni, i confini. Con la prima guerra mondiale le principali nazioni della terra si scontrano in un conflitto che lascerà sul campo più di 9 milioni di morti. Vite spezzate di giovani di ogni nazionalità, sogni infranti in una trincea oppure sotto il fuoco di una mitragliatrice. Oggi noi racconteremo la storia di una di queste vite. Era un calciatore considerato tra i migliori in Italia che non ebbe l'opportunità di continuare la sua carriera per colpa della guerra. Il suo nome è Virgilio Fossati. Ci siamo! La guerra è stata dichiarata. Allora, fratellino, vuoi passare gli anni della guerra a dipingere statue? Ho messo anche te sulla lista. Tra 2 giorni partiremo tutti per l'addestramento di base. Finalmente succede qualcosa nelle nostre vite. Allora, vieni. Beh, stiamo parlando di giovani ventenni, quindi il loro entusiasmo nell'entrare in guerra deriva da una voglia di cambiamento, la voglia che ogni ragazzo ha quando diventa un uomo. Poi siamo agli inizi del Novecento, le occasioni per lasciare la casa in cui si è nati, in cui si è cresciuti, spesso in povertà, nell'analfabetismo, le occasioni non capitano tutti i giorni. La guerra viene vista come un modo per acquistare una libertà intellettuale e imparare a camminare con le proprie gambe. Questo sentimento nasconde una incoscienza nei confronti della guerra e della sua pericolosità, tant'è che la maggior parte di questi giovani sfrontati e entusiasti non tornerà a casa. Baionetta in canna! Pronti, caricate! Forse la prima guerra mondiale è il conflitto più cruento della storia dell'uomo. Lascia sul campo milioni di soldati in combattimento, anche perché rispetto alle guerre che si erano combattute nel secolo precedente vengono stravolte le regole di ingaggio, perché non si combatte più con la spada o a colpi di baionetta, si rimane in trincea, ma qui c'è l'artiglieria che spiana la strada all'attacco. Chi si difende? Alle mitragliatrici, il che rende obsoleto il metodo di attacco usato fino a quel momento. Nei primi scontri del 1914, quando l'Italia non è ancora entrata in guerra, soldati inglesi, francesi e tedeschi escono in fila dalle trincee, sono schierati a 1 metro di distanza l'uno dall'altro, come si faceva un tempo, però vengono falciati dai colpi delle mitragliatrici che sparano a raffica. Nel corso degli anni di guerra si cambieranno le tattiche, alla fine ne uscirà vincitore sempre l'esercito che ha saputo in quel momento modernizzarsi più velocemente degli altri. Con gli austriaci avranno localizzato i varchi, ci avranno piazzato delle mitragliatrici. Devo portare i miei uomini al macello senza artiglieria, senza... Basta, maggiore. Anche noi abbiamo sperato come lei che ci fosse l'artiglieria. Ma non c'è e bisogna prendere ugualmente il ponte. È per questo che siamo qui. Noi siamo qui, signor. Mi scusi. Non ho sentito bene le sue ultime parole, maggiore. La linea funziona malissimo. Stia calmo e attenda l'ordine di attacco. Io non so se sono matto io o sono matti loro. Io dico che se vinciamo questa guerra con i mezzi che abbiamo, siamo davvero un grande esercito. scavano piano a 300 metri da me. Vorrei che tu fossi vicino, sto bene così, spero di te. Abbiamo iniziato a parlare della Prima Guerra Mondiale perché questo avvenimento così atroce e cruento è legato al destino di Virgilio Fossati, il calciatore milanese di cui oggi vi raccontiamo la storia. È una storia che inizia nel 1891, quando nasce questo bambino figlio di una famiglia della media borghesia milanese. È una Milano naturalmente diversa da quella che ci viene mostrata oggi. A Milano ci sono più navigli che strade, la città, che è molto più piccola ovviamente di come è oggi, è attraversata da biciclette, carri, carrozze, muli. È una città che accosta palazzi principeschi del centro con una vita rurale delle campagne che la circondano, e con tanta acqua nei navigli, perché Milano è molto simile a Venezia ancora in quegli anni. I bambini prendono una corda, la legano a un albero, la usano come altalena per fare il bagno nel naviglio, la cui acqua è ancora limpida e pulita. Se qualcuno ha un pallone, ma va bene anche una palla di stracci, si fanno le porte con due giacche e si gioca per strada. Virgilio, un ragazzone alto, dinoccolato, capelli a spazzola, 1,82 m, studia ragioneria, e già questa è una cosa non comune tra i ragazzi della sua età. Appartiene a una famiglia borghese e quindi ha dei privilegi che oggi costituiscono la normalità, come il diritto allo studio. Però Virgilio Fossati ha anche una grande passione, il calcio. Ha solo 15 anni quando si trova con gli amici a giocare o sui prati dell'Acquabella, che è un canale che scorreva a sud-est della città, oppure sui campi della Comasina a nord di Milano. Una domenica, mentre a Tergano i due team dell'USM e dell'Ausonia riposavano tra il primo e il secondo tempo di un amichevole incontro, fu notato questo lungo fanciullo in mezzo a una decina di neogiocatori che dietro il gol s'arrabattavano dietro il pallone. Il più alto sembrava il più tecnico, attirava a sé il pallone con mosse rapide e precise delle gambe, che parevano tentacoli, e una, due, tre volte sferrò così assestati e potenti calci che subito i vecchi giocatori presenti giudicarono d'aver di fronte un giocatore d'avvenire. Questo brano, tratto da un bellissimo libro, La migliore gioventù, che è scritto da Dario Ricci e Daniele Nardi, in cui si raccontano le biografie di alcuni sportivi italiani che furono costretti, come Virgilio Fossati, a fare i conti con le atrocità della guerra. Questo ragazzino si fa notare per le sue doti atletiche, per il tocco di palla, che è una cosa molto rara sui campi in terra dell'inizio del Novecento, dove si gioca un calcio molto diverso da quello di oggi, meno veloce, meno falloso, perché conta molto il codice cavalleresco. È un calcio meno tecnico. Tra l'altro pensiamo che le porte ufficiali non hanno nemmeno la traversa, neanche la rete, sono due pali verticali che vengono sorvegliati da arbitri che giudicano se un tiro passato può essere considerato un gol o no. Forse nella loro semplicità, però, quegli arbitri sanno giudicare meglio di quelli che oggi affollano le nostre partite, anche perché nel frattempo hanno messo la traversa, poi hanno messo le reti e quindi hanno fatto dei passi avanti e poi si sono fermati per la prova televisiva. Dovremo aspettare ancora qualche decennio, temo. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di questo ragazzo, Virgilio Fossati, che sta tirando calci a un pallone, magari un pallone di stracci, perché stiamo parlando di un calcio che ancora viene praticato in modo semplice e artigianale. Ancora non è stata inventata la traversa nei campi di calcio, neanche la rete. Viene montata la prima volta nel 1907, ma viene rubata la notte stessa, perché a quei tempi, insomma, una rete poteva fare comodo. Quando i giocatori delle squadre più importanti si muovevano per le trasferte, viaggiavano sul treno con il biglietto di terza classe. Spesso non avevano neanche i soldi per comprarsi loro 11 magliette uguali, proprio come i calciatori superstar di oggi. Fossati, studente, doveva poi entrare a far parte della Minerva, una piccola società di studenti che contò fra le proprie file il Verga, l'Orsaria, il Ferrari, Silbesana, l'Armando Morbelli e tanti altri footballers dei vecchi tempi. La Minerva non disputava che incontri amichevoli, ma in breve la fama di Fossati si formò. Giocava al posto di terzino e di match in match i suoi progressi apparivano sorprendenti. Centratore brillante, astutissimo nelle entrate a tempo, stupiva tutti per quel suo sistema di gioco esclusivamente basato sulla palla, non sull'uomo, come in genere si usava allora. Eh sì, perché il calcio comincia a evolversi e quindi i migliori sono quelli che capiscono che la palla è in qualche modo va più veloce dell'uomo. Quindi inizia la prima organizzazione di gioco. Piano piano, insomma, sta per nascere la base per il calcio moderno, quello del VM degli anni 30. Talento, fisico, visione di gioco, ancora un paio d'anni alla Minerva e tutti capiscono che Virgilio Fossati è un giocatore diverso dagli altri, è sopra la media. Sono gli anni in cui i ricchi magnati creano nuove squadre di calcio per arricchire un campionato che ancora è agli albori. Alle 23:30 del 9 marzo 1908 al ristorante dell'Orologio a due passi dal Duomo di Milano, 43 dissidenti del Milan Cricket e Football Club si riuniscono e decidono di fondare una nuova squadra, aperta all'estero, in grado di accettare soci, dirigenti e soprattutto giocatori esteri. Si dice: ci chiameremo Internazionale perché la nostra patria è il mondo. Nasce così l'Internazionale Football Club. Il primo presidente è Giovanni Paramitiotti, che è un industriale che rimane solo un anno, anche perché tra i tifosi si vocifera che la sua presenza porti sfortuna, però è grazie a lui che Fossati lascia i campetti di periferia. Così Virgilio Fossati si trova a 18 anni a giocare in un campionato ufficiale con la maglia dell'Inter. Virgilio Fossati, il capitano e allenatore, è l'eroe di giornata. In mediana i palloni erano tutti suoi. Sembrava che la palla avesse per lui delle speciali simpatie, tanto egli riusciva destramente a sottrarla all'incalzare e al sopravvenire degli avversari. Il 28 novembre 1909 l'Inter vince la prima partita della sua storia, allenata e capitanata da Virgilio Fossati. È un campionato dove giocano squadre come la mitica Pro Vercelli, l'Ausonia, l'Andrea Doria. Si gioca all'Arena di Milano in un clima che non ha niente a che fare con gli stadi di oggi, perché la partita è un luogo d'incontro dove si va con i bambini, le mogli, si chiacchiera, si trascorre la giornata e si guarda 22 galantuomini che si contendono il risultato. L'anno successivo, il 1910, è l'anno buono, quello del primo scudetto. Il principale protagonista di questo colpo d'ala è Virgilio Fossati, che gioca nella posizione di centrosostegno, quello che anni dopo sarebbe diventato il regista. L'artefice di questa nuova squadra, dal gioco elegante e fine, era Fossati. I compagni, giocatori di classe ma più individuali, compresero il valore del nuovo elemento. E in breve Fossati assume, per insistente volere dei consoci e dei co-equipiers, il comando del team. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura. 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Lo scudetto del 1910 viene vinto dall'Inter, ma non mancano le polemiche. La Pro Vercelli chiede di poter spostare la partita decisiva, non ottiene il rinvio, schiera dei ragazzini. Quindi in questo clima incandescente comunque esordisce la nazionale italiana contro la Francia. Gli italiani, non ancora azzurri, giocano in camicia bianca con colletto e polsini inamidati. Non ci sono abbastanza soldi per una divisa da gioco nuova e uguale per tutti. Qualcuno ha i pantaloncini bianchi, altri li indossa neri. L'Italia giocherà solo l'anno dopo, nel 1911, in maglia azzurra. Oh, segna anche Fossati un tiro raso terra da 30 metri, sarà il suo primo e unico gol con la maglia della nazionale. Lui gioca altre 11 volte con la maglia azzurra, quasi sempre indossa anche la fascia di capitano. Ma questo spirito da condottiero Virgilio Fossati ce l'ha nel DNA. Lui, che aveva rinunciato alla leva militare per motivi di studio, decide nel 1913 di arruolarsi in fanteria, viene nominato sottotenente. Però intanto in Europa si cominciano a respirare i venti di guerra, gli equilibri sono fragili, basterebbe un singolo evento per accendere una polveriera, e in questo clima difficile l'unico scontro che rimane sui livelli di correttezza è quello calcistico. Così l'11 gennaio 1914, pochi mesi prima dell'inizio della guerra, Italia e Austria si incontrano in una partita di calcio, naturalmente all'Arena di Milano. Ci sono delle rare foto d'epoca in cui ci sono i due capitani, ormai foto sbiadite, loro si scambiano i gagliardetti. Per l'Italia c'è Virgilio Fossati, per l'Austria Robert Merz. I due capitani di lì a poco si troveranno a essere nemici veramente sul campo con le pallottole a combattere l'uno contro l'altro. Il destino ha fissato per loro un comune tragico appuntamento. Tra poco vi raccontiamo tutto. It's a tug of war. Though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. I Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando una storia che arriva perfettamente in questo periodo in cui stiamo ricordando i 100 anni dall'inizio del primo conflitto mondiale. E la storia è quella di un calciatore che si chiama Virgilio Fossati, capitano appena nata internazionale e della nazionale. È un uomo che poco più che ventenne ha giocato all'Arena di Milano. Lui sta diventando un grande calciatore. Bene, gioca la sua ultima partita in nazionale perché gioca contro quell'Austria che di lì a poco diventerà il più acerrimo nemico da combattere. 29 giugno 1914, Sarajevo. Lo studente serbo Gavrilo Principu uccide l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria e dà inizio formalmente a una catena di eventi tragici che porteranno alla prima guerra mondiale. Da una parte c'è il blocco formato dall'impero austro-ungarico, l'impero tedesco, l'impero ottomano. Dall'altra parte c'è la Francia e l'Inghilterra, a cui si aggiungono poi il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti. Per una serie di giochi di alleanze che derivano da trattati stipulati anche nel secolo precedente, in poco tempo le nazioni della Terra si trovano in guerra per regolare i vecchi conti. L'Italia sferra il primo colpo di cannone proprio il 24 maggio 1915 dall'altopiano di Asiago contro le forze austro-ungariche. Questo momento viene immortalato musicamente in una canzone che è tra le più importanti e simboliche del repertorio italiano, la canzone del Piave, scritta in una notte da Giovanni Gaeta, conosciuto con lo pseudonimo di Mario, e a Mario. Questa canzone servì, come disse lo stesso generale Armando Diaz, a risollevare gli animi dei soldati più di un discorso di un generale. Fu anche per un breve periodo l'inno nazionale italiano, forse sarebbe stato meglio prima che venisse adottato quello di Mameli. Virgilio Fossati, già sottotenente dell'esercito, viene convocato per la partita della nazionale italiana contro la Svizzera del 17 maggio, ma lui rinuncia, scegliendo di togliere la divisa inamidata da calciatore dell'Inter e della nazionale per indossare i panni molto più scomodi e impegnativi di soldato. Nel maggio 1915, decretata la mobilitazione generale, Fossati fu aggregato all'ottavo reggimento di fanteria, che con altre truppe per qualche mese fece parte di una riserva strategica dislocata nell'Alto Bresciano in attesa di un'offensiva che non venne, austro-tedesca. Poi, nell'autunno, fu mandato al Tonale e là prese parte a vari combattimenti, svoltisi fra le nevi durante le tormente. Bisogna ricordare che la guerra in Italia è stata soprattutto una guerra di montagna, durissima, combattuta in condizioni climatiche proibitive. Molti soldati sono partiti ancora giovanissimi. Ricordiamo i famosi ragazzi del 99 che appena diciottenni si trovano a combattere a Caporetto. In Italia gli alpini macinano chilometri tra le montagne combattendo contro gli austriaci, mentre sul fronte occidentale si passano interminabili settimane dentro a trincee scavate nella terra solo per conquistare una fattoria, un palmo di terra, quello che era un campo di grano turco. Per i soldati costretti a volte a presidiare il medesimo pezzo di terra per giorni interi, sono pochi i momenti di svago. Su tutti, il gioco del calcio è quello più presente per distendere l'animo e per fare prendere fiato dai combattimenti. Zona di guerra, 21 maggio. Domenica scorsa gli ufficiali del terzo battaglione dell'ottava fanteria si sono incontrati a poca distanza dalle trincee di prima linea in un match di football con sei giocatori. Il sottoscritto, in vista dei suoi precedenti calcistici e delle sue partite internazionali, fu pregato di non giocare, ma di arbitrare la partita, che riuscì veramente interessante. È lo stesso Fossati che scrive per la Gazzetta dello Sport, fa da arbitro perché è troppo forte, però anche queste piccole cose servono per dimenticare le atrocità della battaglia. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. L'intreccio tra guerra e sport non è una novità. Alcuni storici riferiscono per esempio che gli inglesi erano abituati a sferrare gli attacchi al suono delle cornamuse lanciando verso il nemico un pallone da rugby, e in altre occasioni si lancia un pallone da calcio. Gli inglesi, che sono noti per la loro presunta supremazia calcistica soprattutto in quegli anni, lanciando un pallone nelle trincee tedesche tentano di intimorire l'avversario che stanno per attaccare. Anche la stampa dell'epoca, con l'enfasi che abbiamo avuto modo di ascoltare nei piccoli stralci della Gazzetta, trasformano semplici bravate in atti coraggiosi. Ma tra tutti questi aneddoti vale la pena di ricordare quello che accade alla vigilia del Natale 1914. Che sta succedendo? Buonasera, parla la mia lingua? Sì, un po'. Magnifico, stavamo parlando di un cessate il fuoco per la vigilia di Natale. Che ne pensa? Questa guerra non si deciderà stanotte. E non penso che qualcuno ci criticherà per aver deposto le armi la vigilia di Natale. Non si preoccupi, è solo per stanotte. Beh, questa è una storia meravigliosa, perché in alcune zone del fronte occidentale, nelle campagne francesi, intorno alla zona di Ypres, soldati tedeschi mettono sui bordi delle trincee piccoli alberi di Natale che i loro stessi generali hanno inviato per creare un clima natalizio. Immaginate la scena, e quando qualcuno inizia a cantare le tipiche canzoni dall'altra parte delle barricate, gli inglesi suonano le cornamuse. Poi improvvisamente i soldati escono dalle trincee, si incontrano nella terra di nessuno, la striscia neutrale che divide i due eserciti. La chiamano la tregua di Natale e non è un episodio isolato, è un evento che accade senza essere stato programmato da nessuno, spontaneamente in diversi punti della prima linea. Pelle d'oca, per una notte i soldati depongono le armi e si scambiano gli auguri e poi qualcuno tira fuori un pallone. Come pali per le porte vengono utilizzati un paio di bastoni di legno oppure berretti ed elmetti chiodati. I palloni spuntano fuori sempre dalla stessa parte, quella dei britannici. Dove non c'è un pallone a disposizione si usa un po' di paglia schiacciata ben bene e legata con il filo spinato, disponibile in abbondanza. E quando non basta neppure questo, bisogna accontentarsi di un barattolo di conserva vuota. Così racconta un soldato inglese in un resoconto di guerra. Alcuni di questi rudimentali palloni sono ancora conservati nei loro musei. Durante la tregua di Natale viene data sepoltura a tutti i soldati che, morti durante gli attacchi, giacevano abbandonati sulla terra di nessuno, dal momento che era impossibile recuperare i loro corpi. Questo momento di eccezionale spirito di fratellanza ha ispirato tantissime persone, tra cui Paul McCartney, che ha voluto raccontare con una canzone, ma soprattutto con un video, quanto accadde al fronte. And will the work be done? Help them to learn some joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the vibes of peace. L'assurdità della guerra si riconosce anche da queste piccole storie che vengono tramandate come leggende, ma che hanno più che un fondamento di verità. E intanto milioni di ragazzi vengono mandati al fronte e per loro non c'è ritorno. Ogni città, ogni paese d'Italia ha nella piazza principale un monumento ai caduti. Se vi è capitato di ascoltare gli anziani del paese a ricordare qualcuno dei nomi incisi su quei monumenti, potete avere capito solo in parte quanto tragico sia stato per la maggior parte delle famiglie italiane venire a sapere tramite un telegramma della morte di un figlio, di un marito, di un padre. Virgilio Fossati è stato promosso tenente ed è stato trasferito sul fronte del fiume Isonzo e di questi ragazzi ne ha già incontrati parecchi. Dalla trincea invio un caldo ringraziamento anche a nome dei miei colleghi per la vostra cortese premura nel procurarci la lettura tanto desiderata della Rosea. Così scrive Fossati dalle pagine della Gazzetta il 17 aprile 1916 della Rosea. Con il suo reggimento alle porte di Gorizia, i combattimenti nella zona del Carso sono molto cruenti, sanguinosi. Virgilio Fossati riesce sempre a uscire indenne dalla battaglia. Non fu così per altri campioni dello sport che invece morirono, come capitò a Brevedan, campione del Milano, a Giovanni Zini, giocatore della Cremonese, a cui è intitolato lo stadio, lo Zini di Cremona, ma anche lo stesso Robert Merz, che era il capitano della nazionale austriaca. Poi, il 29 giugno, sul Carso scoppia il finimondo. Virgilio Fossati comanda l'attacco dell'ottavo reggimento contro il nemico e dal diario ufficiale leggiamo cosa accade. Dopo che il reparto lancia torpedini Bettica del 26esimo Cavalleria ebbe aperti i varchi nel reticolato antistante la trincea avanzata di quota 77, i nostri presero contatto con il nemico. Durante l'azione, mentre spingevano i loro soldati all'assalto al grido di Savoia, caddero i tenenti De Luca, signor Andrea, Fossati, signor Virgilio, e l'aspirante ufficiale Orfei, signor Alfonso. Dei tenenti Fossati e De Luca non si ebbero più notizie. Nella stessa azione, oltre alla perdita dei tre ufficiali, si registra anche quella di 27 militari di truppa morti e 30 feriti. È l'ennesima assurdità di una guerra già di per sé assurda. E il corpo di Virgilio Fossati rimane là in quella zona dove era impossibile recuperare i morti senza essere uccisi. Per giorni non si è sicuri di nulla, non si è sicuri della sua sorte, tant'è che la Gazzetta dello Sport pubblica un titolo che è questo: anche Virgilio Fossati, punto di domanda, sperando che la notizia sia falsa. Ma la risposta alla domanda arriva qualche giorno dopo, quando la morte del calciatore di soli 25 anni viene confermata proprio dall'allora direttore della Gazzetta, Emilio Colombo. Con la morte di Virgilio Fossati, il football italiano ha perso inesorabilmente uno dei suoi più puri campioni, oltre che una delle sue figure più caratteristiche e popolari. Giocatore d'una classe a sé, lascia un gran vuoto, perché altri hanno voluto da tempo imitarlo nel sistema di gioco senza poterlo raggiungere. Dopo aver svolto in tutte le fasi del combattimento attiva e audace opera, si offriva spontaneamente per rintracciare possibili varchi nel reticolato nemico, e in tale ricerca cadeva colpito a morte, incitando i soldati a avere fiducia nell'esito vittorioso dell'azione. Questa era la guerra e questa è la motivazione con la quale a Virgilio Fossati viene conferita la medaglia d'argento al valor militare. Un riconoscimento che purtroppo non vale una vita spezzata a 25 anni e la perdita per il calcio italiano di un grande campione, che sicuramente avrebbe ancora avuto grandi soddisfazioni per la tecnica e lo stile che ha dimostrato nei pochi anni di attività. In questi giorni di celebrazioni vi voglio far ascoltare un dialogo tratto dal film La Grande Guerra di Monicelli, considerato uno dei migliori film della storia del cinema, un film che unisce tragedia e commedia in un racconto struggente della vita di trincea con due giganti, Sordi e Gassman. Ce la faccio io questa porca guerra? Vacca, io la devi fare anche te. Guarda, tutti la devi... devono fare la guerra, tutti devono fare il sacro dovere. Sì, e te com'è che lo facevi il sacro dovere? Andando imboscato al distretto, no? Sì, e che sto fai io qua? Oh? Volontario se sono venuto io, sa? Senti bene, bambino, con me il discorso patriottico lo devi lasciare proprio da parte, perché non funziona mica, capito? Tanto per cominciare, guarda, questa guerra non è mica la guerra mia. No. No. La mia guerra è contro i pescicani imboscati figli di una vacca, e quelli non stanno mica soltanto in Germania o in Austria, stanno dappertutto. E io, bambino mio, di morire per loro non ce l'ho mica tanta voglia, sai? Hai scelto. La patria ha bisogno di opere, mica di morti. Quello che dico io. E io ho intenzione di fare grandi cose per la patria. Che mestiere fai, te? È il barbiere. Vai via, barbiere. Troppo spesso ci dimentichiamo che poi la guerra, soprattutto in quegli anni, la facevano gli uomini, la facevano dei ragazzi come Virgilio Fossati, che ha dato un grande colpo d'ala, ma non giocando a pallone, semplicemente lasciando la sua vita per una guerra e per un ideale. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno, e noi aspettiamo altre idee da parte vostra. Vi chiediamo di segnalarci altre storie via mail al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure alla mia pagina Facebook, a quella del Falco e Gabbiano. Insomma, se volete mi trovate. Ciao a tutti. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Occhipinti, con la collaborazione di Dario Ricci. Domenica 24 maggio su Radio 24 andrà in onda un Radio Day dedicato alla Grande Guerra.